Bene, rientrati per 451 frammenti sonori in compagnia di Max Macchia e Delisio Scarpa. Sì, abbiamo rifatto la presentazione, come dire, che in genere apre le nostre scorribande. Sì, notturne, sì. Sotto la neve. Ecco, sì, bella bianca, infatti l'ha nottata. Sì. Re bianco come il cielo quando non lo so, mi sto lanciando, in realtà poi lo space è ben nero, insomma, il cielo. Beh, insomma, tra poco poi sarà marrone questo bianco che vediamo fuori. Ah, vabbè, ma tu sei sempre, come dire, un po' molesto, molesto. I tuoi immaginari. Immaginari. Sì, in effetti si trasformerà in marrone già domani mattina. E vabbè, ci accontenteremo anche del marroncino post nero. Ma sì, dai. Allora, 451 Space Jazz questa notte in compagnia di meraviglie che per la prima parte rappresentavano gli anni 70, gli anni di fondazione di quello che si può considerare Space Jazz: Marcus Belgrave, Leon Thomas, Herbie Hancock, Stomo Yamashita e tante, anzi alcune citazioni. Poi magari è impossibile anche che prossimamente o più avanti, ma bisogna farlo, dai. Faremo magari proprio un DJ set su tutto lo Space Jazz o buona parte di esso, insomma, quindi facendo una specie di Space Jet Suite di 451. Eh sì, sarebbe bello, vediamo di riuscire a farla, non come tanti altri che dovevamo fare, che non siamo riusciti a fare, perché vabbè, lanciamo noi. Quelli che si lanciano poi così cadono, un po', e cadono di brutto proprio. E adesso, in apertura, diciamo, di questa seconda parte dedicata allo Space Jazz, entriamo negli anni 80, che non sono stati particolarmente fecondi, collegato ovviamente, non che non siano stati fecondi dal punto di vista musicale, che da questo punto di vista abbiamo trattato moltissimi materiali, moltissimi ambiti connessi agli anni 80, ma sul terreno del space jazz, ma un po' su tutto il jazz, sì, e le sue derivazioni, c'è stato un momento veramente di buio, di ritorno al passato, di chiusura, di steccati, pochissime cose interessanti sono uscite. Di solito era più facile trovare in ambiti collaterali delle influenze jazzistiche, dei linguaggi jazz avanzati, sperimentali, ma proprio... ricordiamo, vabbè, la scuola di Zordi, assolutamente, Frisella, ma anche una certa ECM, qualcosina ha prodotto di interessante, però diciamo che il territorio musicale è andato un po' in difficoltà, ma perché imperversava fondamentalmente quella cosa terrificante che è stata la fusion, che ha ammazzato parecchio. E però appunto negli anni 80 abbiamo estrapolato, così anche per certi versi casualmente, un progetto che oltretutto non abbiamo mai inserito in 451, un progetto che è durato relativamente, insomma, circa 5 anni, dalla fine degli anni 70 all'inizio degli anni 80, progetto intitolato General Strike, con all'interno dei personaggi che poi hanno fatto veramente la storia della musica sperimentale. Infatti all'interno c'era David Toop, Steve Beresford, David Cunningham e collaborazioni con Leo Coxhill, Dan Roberts e Martin Ten Holm. Questo progetto, General Strike, appunto, ha prodotto due dischi: il primo My Body, che in realtà è un 7 pollici del 79, e il disco che è Danger in Paradise, ovviamente prodotto per la sua magnificenza e la sua ecletticità da una grande etichetta come la Touch Records. All'interno si trovano elementi di space jazz, ma si ritrovano un po' tante cose, insomma, wave, un certo funk, una certa sperimentazione proprio connessa anche a certe forme vicine anche per attitudine a una certa, adesso mi lancio, anche una certa industria più avanzata, più avanguardistica. E questo è un disco che comunque ci ha colpito, perché ha degli elementi talmente astratti che si avvicinano sicuramente anche a un'idea di space jazz. Chiaramente il suono, il linguaggio sonoro è differente differente rispetto ai quattro lavori che abbiamo messo nella prima parte, ma troveremo molte differenze in questa seconda parte, declinazioni forse più esatto che differenze, anche nei progetti successivi a General Strike che abbiamo in scaletta, che attraverseremo tra gli anni 90 e gli anni 0. Intanto andiamoci a sentire alcuni frammenti da questo splendido lavoro che vi consigliamo di andare a cercare, a trovare, ad ascoltare: General Strike, Danger in Paradise. Thank you. Mi ha fregato con questo ultimo giochino sonoro, splendido lavoro questo dei General Strike. Ricordiamo ancora Danger in Paradise 1984, potremmo dire veramente tutto l'aspetto sperimentale degli anni 80 che emerge con i General Strike, la New Wave in particolar modo, come suono, come attitudine, questo brano splendidamente ricostruito, rivoltato, brano di Sun Ra, uno dei grandi maestri dello space jazz interplanetary music, riportato ovviamente in una dimensione New Wave, molto giocosità, molto delirio, molto presa in giro e presa anche in giro di se stessi della musica in un'ottica assolutamente nuova, quella degli anni 80, che molte volte abbiamo trattato all'interno di 451 frammenti sonori, soprattutto quella parte che navigava appunto in quell'universo denominato New Wave, dove passava di tutto, passava il jazz, passava lo space jazz, il funk, il rock deviato e qualche eco anche residence in questo cantato assolutamente delirante, riportato da Interplanetary Music. Grande disco, grande formazione che ha prodotto solo questo vero e proprio album, Danger in Paradise, e poi i grandi Toop, Beresford e adesso mi perdo il terzo che era fondante, vediamo se lo ritrovo, non lo ritroverò mai, comunque questo trio fondamentale che poi successivamente porterà avanti carriere soliste ma anche progetti con altri autori per costruire grandi lavori musicali. Pensa a te, Dave Cane, che è uno di quelli che amo di più di quegli anni 80, che oltretutto ha fatto un lavoro splendido 2 anni fa che abbiamo già mandato 2 volte all'interno di 451, sempre riportato un jazz spaziale riportato appunto ancora più nei giorni nostri, nei tempi nostri. Da General Strike adesso ci spostiamo negli anni 90, dunque dall'84, un salto di 10 anni, arriviamo al 94. Sì, Love TKO, TKO, così sarà? TKO. Beh, in realtà è una citazione quella che vogliamo fare, soprattutto ha un'etichetta e poi ha un'altra, che se, come diceva appunto prima Eliseo, negli anni 80 si perse un po' quella faccenda, insomma, del jazz soprattutto spaziale, diciamo che le psichedelie in generale, ecco, negli anni 80 hanno sofferto in particolar modo, o si recuperò poi alla fine degli anni 80 soprattutto sull'onda delle acid house e di certe faccende, insomma, para rock, cercò di recuperare lo spazio, però in effetti gli anni 80 sono stati tristi in questo senso, anzi gli spazi venivano proprio sottratti, se pensiamo alle musiche industriali chiuse, quasi una sorta di incubo, assolutamente, insomma, labirintico, ma appunto una sorta di infinita chiusura. Invece negli anni 90 succedono cose molto interessanti per quanto riguarda chiaramente lo spazio, la spazialità, per chi ama questi suoni. Noi ne amiamo tanti di suoni, poi, a dire la verità. Infatti. Poi ogni volta che facciamo le trasmissioni magari parliamo bene dello spazio, poi a volte parliamo bene invece della mancanza di spazio, no? In questo caso appunto dentro lo space jazz sicuramente l'ariosità degli anni 90, del trip hop, di una forma di jazz che riprendeva quota dentro le nuove elettroniche, la jazztronica stessa che informava poi il primissimo 451 nato nei primissimi mesi degli anni zero, era insomma fondamentalmente legato alla jazztronica, all'elettronica molto eclettica che prendeva tantissimo dalle cose che stiamo mettendo appunto questa sera, e Mo Walks si muoveva proprio in quell'ambito lì, probabilmente la prima e anche forse la più importante in questo senso. Ricordiamo le amatissime nostre Ads compilation splendide, incredibili, proprio per questo recupero del jazz, rilettura e reinvenzione totale, anche molto interessante, che ha dato veramente tanto sia alle musiche elettroniche in generale, al nuovo jazz, al nuovo modo di intendere anche il digitale, e quindi tributiamo insomma questo omaggio a Mowox con uno dei progetti più oscuri ma anche tra i più interessanti, 1994, Love TKO, Ed Turner, forse un gioco di parole con i Dunters, progetto di Hancock, lasciamo così, lasciamo il dubbio. We'll be right back. finale, direi assolutamente Space Jazz da parte di Poet of Rhythm, dopo Love TKO con il Turner del 1994. Abbiamo fatto un omaggio, se il primo era la Mowalks, appunto di Love TKO, The Poet of Rhythm invece facciamo un grande omaggio alla Ninja Tune, che di fatto sono state le etichette. Se la Mowalks ha iniziato, la Ninja Tune sicuramente ha continuato, anche perché la Mowalks poi, per una faccenda legata a soldoni, ai soldoni, purtroppo ha chiuso battenti. Invece la Ninja tutto sommato continua ancora, seppur spizzichi e bocconi, come ameresti dire tu, caro Non lo dico da parecchio, però è così, è festa in piazza, è festa in piazza un'altra, sì. Buonanotte suonatori, buonanotte suonatori, eccetera eccetera, cose importanti. Sono le tue, insomma, forme importanti per dire delle cose altrettanto importanti. Sì. Come si diceva prima, se gli anni 90 sono stati un po' di riapertura rispetto a quel suono spaziale, space jazz, che sembrava riaprirsi, gli anni zero probabilmente hanno contestualizzato ancora meglio certe situazioni, se comunque la nostalgia è anche un po', come dire, la voglia di riaprire dopo un decennio decisamente poco spaziale, ovvero quello appunto degli anni 80, quindi i 90 furono, come dire, una fuoriuscita da quello. Gli anni zero hanno, come dire, ricalibrato la faccenda, anche se poi, come dicevamo inizio trasmissione, hanno fatto un po' perdere in un mare magnum quello che era il suono spaziale jazz, nel senso che ci sono state delle cose veramente notevolissime in questo frangente o filone, come abbiamo detto prima, però sicuramente, insomma, la spinta evocativa e così filologica anche è finita, diciamo, soprattutto negli anni 90, seppure appunto adesso sentirete anche cose piuttosto recenti, insomma, legate agli anni zero, seppure appunto molte cose belle sono uscite nell'ambito dello space jazz, o quello che vogliamo considerare tale, qua 451 frammenti sonori. E infatti andiamo a trovare degli altri tedeschi. Degli altri tedeschi, formazione questa invece che abbiamo già inserito in un'altra trasmissione di 451, Tenant Eagle Trio, ritornano dopo un po' di tempo all'interno delle nostre scalette musicali, formazione tedesca che ha attraversato gli anni 90 e gli anni 0 con ottimi risultati, un jazz elettronico molto aperto, con dimensioni alle volte anche vicinissime alle dimensioni prodotte e portate su CD e su materiale digitale della stessa Mowalks e della stessa Ninja Tune, con ovviamente il distinguo di costruire dei brani di jazz elettronico, di space jazz, sicuramente più legati alle strutture, più, diciamo, connesse a linguaggi jazzistici, meno elettronici. L'elettronica ha un rapporto particolare dentro Tide Tigre Trio, che nasce più come un trio jazz nel senso proprio più stretto del termine, per aprirsi poi all'elettronica e costruire anche delle dimensioni che si avvicinano ad esempio anche a strutturazioni minimaliste dentro il jazz elettronico. E da questi lavori di Tide Tigre Trio, che ormai hanno prodotto materiali da più di un decennio, abbiamo inserito parecchi album. Quello che manca è un particolare disco uscito, un EP intitolato Electric Avenue Tapes, dove l'aspetto elettronico è sicuramente molto molto presente, in particolar modo anche il trattamento di nastri magnetici, che in questo disco in particolare, l'album e il titolo lo dice abbastanza chiaramente, Electric Avenue Tapes, un ruolo fondamentale, trattamento dunque elettronico su elementi analogici per costruire delle dimensioni di space jazz e di jazz, di future anche jazz, con anche delle ritmiche dub che si agganciano perfettamente sia all'apertura di questa seconda parte con General Strike, ma anche con certe atmosfere infatti di Heliocentrics, che poi troveremo, ma anche in parte dai lavori di prodotti dalla Ninja Tune. Andiamoci a sentire dunque subito Tagged più Tickler Trio, Electric Avenue Tapes. Thank you. Heliocentric, da un disco importante del 2007 che la dice lunga su ancora un certo modo di intendere la spazialità jazz, il jazz in generale, quello che può essere insomma un filo rosso che lega dagli anni 60 in poi certi artisti e anche certi linguaggi che si sviluppano magari partendo appunto da un'origine ben anche consolidata, ben anche presente dagli stessi autori, ma che appunto si sviluppa poi in maniera assolutamente propria, quindi inserimenti come prima in T-Dentric Trio col dub o con General Strike, quindi ad esempio con la wave così più astrattizzante, o con Heliocentric nel 2007 per un disco che odora molto di anni 70, ma con sia una caratura data da sicuramente un impatto analogico, strumentale, classico, e una mentalità comunque digitale che li porta appunto ad elettizzarsi con quella grande generazione rappresentata da Mowox e Ninja Tune, che citavamo ad esempio prima con Love TKO e poi con The Poet of Rhythms. Heliocentric poi ce la dice anche lunga sul riferimento proprio Heliocentric World, chiaramente disco e progetto assurdo, assurdista di San Ra, che già per ben due volte questa sera viene citato direttamente, sia per quanto riguardava General Strike che ora per quanto riguarda proprio Heliocentric, che col nome insomma omaggiano il grande maestro cosmico, delirante, futurista, eccetera eccetera, insomma, eccetera eccetera, non posso dire tante, ce ne potrebbero dire veramente tante, forse pure troppe, le diciamo? Stiamo qua fino alle 4, no, aggettivo, però potremmo fare un esperimento di quelli che spaccherebbe la testa a tutti e non solo la testa, okay. Diciamo tipo Sarra e cominciamo con gli aggettivi. Miles Davis, aggettivi. Hai ragione, un bel giochino. Potremmo fare un gioco a premi così. Tra l'altro volevo ricordare una brutta roba, vedi, mi è uscito proprio in Cristo. È vero, è uscito e purtroppo se n'è andato un pezzo. Se n'è andato un pezzo. Che abbiamo appena visto poi. Tu hai visto. Io vabbè, no. Adesso non volevo creare di nuovo la polemica, però no, che polemica. Ultimamente veramente non so, però Porta male. Porto dici. Io male, non lo so, no, perché sto caso l'abbiamo visto, dopo 2 mesi è morto. Pete Christopherson, ex Robin Grista, le cose. L'hai visto? E è tu, morto. Quindi tu, perché io non c'ero. No, sono io probabilmente. Allora potrei andare in qualche altro posto, non proprio concerti che mi piacciono, qualcosa che mi fa schifo almeno. Però, ecco, però io non sono ancora morto, quindi no, ti vedo tu spesso. Si vede che hai maturato gli anticorpi. Ecco. Purtroppo questo livello può succedere. Ti vengono questi pensieri. Purtroppo se n'è andato. Comunque è una cosa abbastanza pesante, anche perché stava benissimo. Il concerto era assolutamente, almeno sembrava stesse bene. È morto nel sonno, una cosa abbastanza, non si hanno altre notizie. È andato via un altro pezzo di musica, insomma, della storia della musica, è un gruppo poi a cui noi particolarmente di 451 teniamo molto. Sia tra Robin Grista che Coil. Tra Robin Grista e Coil. E tra l'altro Coil hanno anche avuto una, sono un po' falcidiati perché anche Joe Balance purtroppo 5 anni fa ci ha lasciato. Riposo in pace. RIP. Di 451. Hai perfettamente ragione. Comunque era giusto ricordarlo. Requiesco ante in pacem, così mi ricordo anche un po' bravo, di latino. No, ma dillo queste cose, che è importante. Sì, facciamo un po' i fighi, va bene. Dai. Comunque, purtroppo succedono anche queste cose, i migliori se ne vanno, famosa frase abbastanza sfruttata in maniera indecente. Anche destrorsa, secondo me. Anche abbastanza destrorsa, ragione. Dunque, meglio evitarla, hai ragione. Va bene, andiamo avanti. Purtroppo, dopo questa notizia non positiva, nei confronti ovviamente di un pezzo di storia della musica industriale, non solo, e continuiamo il nostro viaggio nello space jazz. Abbiamo attraversato gli anni zero, abbiamo semplicemente traghettato dagli anni 70 agli anni zero con 2 progetti, fondamentalmente General Strike negli anni 80 e Love TKO del 94, e poi siamo entrati subito negli anni zero, che comunque sono stati fecondi di un ritorno dello space jazz secondo le nostre declinazioni, in un'ottica estremamente aperta e variegata. Sono nati molti progetti, soprattutto negli Stati Uniti d'America, ma anche in Inghilterra, di un jazz elettronico sicuramente molto aperto, molto spaziale, molto psicadelico. Molti sono i progetti che abbiamo inserito nelle vecchie trasmissioni. Ricordiamo formazioni come Isotope 217, Springle Jack e tanti altri. E uno di questi che abbiamo utilizzato e inserito molto sono stati proprio Chicago Underground Duo, formazione che vogliamo omaggiare, dato che ieri erano presenti e anche noi siamo stati presenti a questo splendido concerto all'area sismica di Forlì, che poi Ravaldino. In Forlì, un posto che oltretutto vogliamo anche salutare gli organizzatori di questo circolo Arci, che organizza dei concerti ormai da più di 20 anni. Sono passati formazioni e progetti di primissimo piano della scena sperimentale, dell'avanguardia. Loro curano molto l'aspetto jazzistico, ma in maniera molto aperta, progetti molto sperimentali, molto arditi. E devo dire che pensare che un locale così piccolo, in un posto così piccolo, sperduto, campagna, riesca a portare avanti per più di 20 anni questo tipo di progettualità, bisogna veramente togliersi il cappello. Dunque un saluto a Ariele e a Johnny, che non si sa mai che potrebbero essere in ascolto dalla trasmissione. E questo concerto che abbiamo assistito, un ottimo concerto. Chicago Underground 2 è venuto appunto a presentare in parte l'ultimo album uscito qualche mese fa, Bocca Negra, che adesso andremo proprio a presentare. Formazione, ricordiamo, composta da Mazurek, Rob Mazurek, che esce in maniera molto netta dalla scena hardbop di Chicago e poi si è sempre più spinto verso sperimentazioni connesse soprattutto all'elettronica, costruendo questo progetto insieme ad Chet Taylor, che invece esce sicuramente anche lui dall'ambito jazz, ma in ambito sicuramente un po' più eclettico e aperto di Mazurek. E insieme hanno già costruito diversi album dagli anni 90 ormai, anzi in realtà il progetto è nato addirittura negli anni 80, ma i primi dischi sono usciti nel 94, fino ad arrivare appunto al 2010 con Bocca Negra. Abbiamo selezionato 2 brani che rappresentano di più l'aspetto spaziale di questo album, 2 brani che appunto navigano tra sperimentazione, momenti estremamente aperti, appunto quasi da viaggio nello spazio, e ce li andiamo ad ascoltare insieme, ricordando comunque che in questo disco c'è anche un omaggio al grande Ornette Coleman nella terza traccia. Giusto ricordare. Thank you. Oh, Thank you. uno dei progetti più interessanti degli anni zero sicuramente è stato Steve Reid insieme a Kieran Ebden, progetto che è veramente stato di notevolissima fattura musicale e una dialettica quasi impossibile. Poi in realtà ci siamo abituati anche all'impossibilità come possibilità, soprattutto appunto dentro le musiche sperimentali. È bene che sia così, visto che Steve Reid veniva dal Giro di San Ra, e quindi terza volta che citiamo il grande jazzista. E invece Kieran Ebden proviene da tutt'altra faccenda, ovvero da Fortet, da una forte digitalizzazione, e anche se vogliamo in chiave piuttosto pop. Fortet poi sì, alcuni versi sicuramente ha un versante, sì, se potremmo definirlo tale, scusate la mia reticenza, però in effetti io lo considero più pop, quali consideriamo più pop che sì. Sì, che sperimentali, però sicuramente anche interessanti, seppur non amiamo particolarmente la musica di Fortet, magari qualcuno qua storce il naso, non è che possiamo amare tutto. Poi d'altronde ci troviamo anche abbastanza d'accordo tutte e due su questa faccenda, però appunto con Steve Reid, Kieran Ebden dà veramente il meglio di sé e creano delle strutture sonore partendo dal jazz, dalla musica digitale, veramente enormemente interessanti, con questa potenzialità del nuovo che ha sempre interessato comunque, che in questo caso tutte e due, Steve Reid già insomma nei tardi anni 60 e poi nei suoi splendidi lavori dei 70 legati al free più spaziale, e Ebden che è riuscito a declinare il suo pop digitale dentro delle strutture molto più libere, molto più fantastiche, fantasiose, appunto con questo progetto che purtroppo non esiste più, perché ahimè prima abbiamo dovuto fare il RIP, Request Count in Pace, ma per Pete Christofferson, ex Throbbing Gristle, ex Coil, e adesso dobbiamo farlo purtroppo per Steve Reid, che poi qualche mese fa è venuto a mancare. Certo, Reid non aveva 55 anni di Pete Christofferson, ne aveva insomma quasi 80, o se no addirittura qualcosina in più, però insomma dispiace che soprattutto la vitalità, la grande vitalità ancora di questo grandissimo musicista sia andata insomma a spegnersi con la morte insomma biologica, seppur di vitalità poi artistica e di seminalità dentro i lavori, quattro lavori di Steve Reid e Kieran Ebden, se ne parlerà e sicuramente ancora fileranno per molti anni. Riteniamo insomma che New York City del 2008 possa dire veramente ancora tantissimo per nuove generazioni che si vogliono approcciare appunto allo space jazz, alle musiche sperimentali che vagamente partono dal jazz e in questo caso anche da una forte digitalizzazione. Eh sì, dopo questa ottima presentazione di un personaggio che sicuramente merita questo tipo di presentazioni, ora ci avviamo a presentare l'ultimo progetto del nostro percorso di stasera sullo space jazz, e vogliamo appunto chiudere questa trasmissione con un personaggio importantissimo della scena sperimentale ed avanguardia. Sainco è il nome più conosciuto come appunto nome, progetto e pseudonimo, che in realtà è parte del nome di Sainco Namicilak, musicista assolutamente poliedrica, grande sperimentatrice della voce, ha studiato voce, tutta una serie di tecniche vocali fin da giovanissima nei vari conservatori e particolari scuole di voce dalla Siberia, da dove lei proviene, dunque in realtà dalla Repubblica di Tuva, sud di Siberia, dunque della Russia, e musicista che poi ha portato avanti praticamente tra gli anni 80 e gli anni 90 tutta una serie di collaborazioni molto importanti, molto importanti sul settore ovviamente della, delle avanguardie, connesse anche comunque alle musiche popolari, alle musiche tradizionali, il recupero ovviamente di tutta una serie di canti tipici che hanno attraversato l'Oriente dell'Europa, ma anche l'Oriente in senso proprio geografico generico, tutta una serie appunto di vocalità che ad esempio il grande Demetrio ha attinto a piene mani con i suoi studi, con le sue ricerche, e anche in base alla sua provenienza piuttosto anche abbastanza intrecciata fra Grecia, Egitto, Medio Oriente, Europa. Anche lei ha collaborato con molti musicisti, con molti progetti, per poi arrivare a portare avanti un discorso negli ultimi anni anche aperto a coloriture jazz d'avanguardia. In particolar modo questo disco che andiamo adesso a presentare, in trasmissione di circa un anno fa abbiamo messo un splendido lavoro che è Nomad, uscito proprio 2 anni fa, mentre il disco che mettiamo adesso del 2004, uscito per la Ponderosa Music and Art, World Stole the Sky, un lavoro dove anche qui alterna momenti di brani completamente con vocalizzazione, dunque a voce solo, per poi passare invece a momenti dove si ascoltano e ci si fa cullare attraverso queste atmosfere di musiche tradizionali, soprattutto di ispirazione orientale, dove appunto i viaggi e i percorsi possono anche ricordare certe sperimentazioni di una certa psicadelia che appunto negli anni 60-70 ha attraversato tutta una serie di musiche orientali, facendosi coinvolgere e trasformare, ma non solo questo, musiche minimaliste hanno attinto a piene mani a un certo tipo di struttura. In questo disco invece il jazz emerge in parte, in particolar modo in un brano che abbiamo selezionato e che è sicuramente interessante per come si sviluppa, un inizio con questi vocalizzi della Sainco, per poi arrivare appunto a delle elaborazioni jazz molto aperte che ricordano moltissimo certe atmosfere dello space jazz degli anni 70. Diamocelo dunque a sentire, Sainco, Naim Chalak. Mm-hmm. Caro mio. Questo me l'ha lasciato per me, appunto, che sono uscito dal bagno. Ma no, ma non si fa così. Non si dicono. Ti spiazzo, vedi. Comunque ricordiamo. Ma spiazzi un po' tutti. Splendido, male, splendido il lavoro della Sainco. Una Michelac, che mi mangio pure mezzo. Se lo dici così, è meglio se dici Sainco e basta. Sainco, veramente splendido, perché Namchilak. Namchilak. L'abbiamo fatto. Namchilak. E proprio per chiudere proprio nel miglior modo questa trasmissione di stasera, speriamo che anche voi vi siate fatti un bel viaggio nello spazio dello space jazz. Certo, tu parli di bagno, poi parli di spazio, devo ancora capire. Anche il bagno è uno spazio. Lo spazio è un po' angusto, insomma. Sì, è un po' angusto, anche freddo qua, oltretutto alla destra del capo, perché c'è la finestra sempre aperta. Comunque. Perché ti sei andato a sciacquare la faccia. Certo, sapere, certo. Sentire più la freschezza. Certo, stare anche meglio, no? Vabbè. Non lo so dove andremo a finire. Devo finire domani, lo vedi. Parliamo del culetto dei nonnetti arrossato. Se continuiamo così, potrebbe essere interessante, sai, potrebbe essere il nostro futuro anche. Come questa musica, caro mio, caro, che belle, caro. Che belle note, guarda. Note per te proprio, note di notte. Che poesia, caro, ti devo salutare. Anch'io questo sai. Pezzo ti saluto. Mi dispiace, devo andare. Il mio posto il famoso, è là. Il famoso pezzo, va bene, dai. Ovviamente vi aspettiamo per domenica prossima, sempre alle 23:30 circa, però questo pezzo passo. Ma è di commiato. È molto di commiato proprio finale, generale. Storico. Va bene. Ovviamente vi aspettiamo domenica prossima, sempre alle 23:30 sulle frequenze di Radio Città del Capo. Un saluto da Max Macchia e da Eliseo Scarpa. Ciao, fate i bravi.